Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata solare, nel senso che parleremo di energia che proviene dal sole, in particolare fotovoltaica, ma non solo. Per un quadro generale della situazione in Italia abbiamo chiesto aiuto a Vittorio Chiesa, direttore dell'Energy and Strategy Group presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Negli ultimi anni il fotovoltaico è cresciuto in maniera molto rilevante, soprattutto nel 2008 e nel 2009 ha registrato un tasso di installazione e di crescita molto importante, che è culminato in questa cifra un po' magica di un gigawatt installato diciamo a fine 2009, che come tutte le cose, no, ci sono delle tappe che vengono sancite dai numeri. Tra l'altro nel 2009 per potenza installata al mondo l'Italia è seconda dopo la Germania e quindi comincia a essere una realtà che, seppure non su numeri molto molto elevati a livello assoluto, però diciamo importante e rilevante a livello internazionale. C'è un grosso divario dalla Germania, o comunque la Germania, che viene sempre presa come punto di riferimento, no, non ha poi questa... Allora, il distacco è molto rilevante, perché la Germania installa 3-4 volte più di noi ogni anno, quindi diciamo siamo secondi, ma secondi a larga distanza. La Germania diciamo ovviamente è partita praticamente 10 anni prima e quindi beneficia del fatto che il sistema industriale, la filiera è cresciuta con la crescita delle installazioni e oggi ovviamente è in grado di affrontare tassi di crescita e di installazione molto più rilevanti. Quindi noi abbiamo un tasso di crescita insomma sostanzioso, ma non sostanzioso, cioè secondo al mondo, le dico, poi secondo al mondo. Quindi noi abbiamo installato l'anno scorso tra 600 e 700 megawatt, che comunque come potenza installata ci colloca al secondo posto al mondo. È chiaro che la Germania lavora su altri numeri, quindi e ovviamente per arrivare a far sì che il fotovoltaico pesi a livello di produzione energetica sul fabbisogno energetico nazionale c'è ancora molto molto da fare, questo è indiscutibile. Potrebbe un giorno avere questo peso rilevante secondo lei oppure no? Ma allora, il potenziale per crescere è molto forte, diciamo. Noi abbiamo fatto una stima sul potenziale teorico, e sottolineo teorico perché poi viene confuso come un potenziale realistico, ma teoricamente noi potremmo arrivare a 40 gigawatt, che corrisponderebbe poi in termini di installato pro capite alla stessa dimensione che la Germania si è data per il 2020, quindi non è un numero irrealistico. È chiaro che noi a 40 gigawatt nel 2020 non arriveremo, perché non abbiamo la capacità anche industrialmente di alimentare questo tipo di numero, e perché ovviamente andrebbero fatte delle scelte che sicuramente dovrebbero, come dire, possono indurre delle riflessioni. Quindi politiche energetiche proprio. Sì, proprio il fatto di mettere, non so, usare campi incolti per campi fotovoltaici, che può piacere o no. In Puglia fino all'anno scorso sono stati premiati molto i campi fotovoltaici, e poi per limitare il fatto che le campagne venissero troppo ampiamente destinate a questo tipo di impiego, è stata messa una clausola per cui i terreni ad uso agricolo non possono essere adibiti a ospitare installazioni fotovoltaiche. Per cui, come dire, dietro a questo ci sono ovviamente delle scelte da fare. Però devo dire che se si prende, per esempio, solo si prendono altri aspetti, se vuole, meno invadenti del fotovoltaico, quindi la copertura delle unità residenziali, quindi le unità abitative delle famiglie, le coperture delle serre, piuttosto che la copertura dei centri commerciali e della grande distribuzione, ragioneremmo comunque su 10-15 gigawatt di potenziale al 2020. Insomma, 10-15 gigawatt cominciano a essere numeri sicuramente con un peso diverso. Lei parlava prima anche della filiera che sta dietro, sì, a tutto questo, sì, sì. Quindi in Italia non siamo messi molto bene. Allora, in termini di filiera industriale, noi il giro d'affari smosso dal fotovoltaico e dal sistema di incentivazione che lo ha ovviamente generato e sostenuto numericamente comincia a essere interessante, perché attualmente diciamo è attestato, nel 2009 è stato complessivamente di 2,3 miliardi di euro, e se si considera anche l'indotto, quindi tecnologie e componenti che il fotovoltaico si è trascinato, va aggiunto a questo 1,6 miliardi di euro, quindi complessivamente sono circa 4 miliardi di euro di giro d'affari. Quindi diciamo, numericamente comincia a essere un comparto che ha un suo interesse, una sua dignità. Il problema è che diciamo, la filiera industriale italiana nel comparto è comunque molto recente, perché di fatto è nata quando si è stabilito un sistema di incentivazioni in Italia interessante, quindi sostanzialmente 3 anni fa. E questo fa sì che sia una filiera giovane e che ovviamente, come dire, adesso non dico soffre la competizione perché è competitiva, però compete con imprese americane, tedesche o estremo orientali che spesso sono sul mercato da più tempo. E quindi di questo giro d'affari noi di fatto ci appropriamo di un 30%. Adesso cioè, dovendo dare una percentuale un po' rozza, perché poi bisognerebbe vedere su cosa si calcola, se sul fatturato piuttosto che sulle marginalità, però diciamo che un terzo mediamente del giro che viene generato al fotovoltaico rimane in Italia, e il resto in realtà va nelle mani di operatori stranieri. Ci sono segni interessanti, nel senso che la dinamica è comunque positiva, per cui, come dire, le imprese italiane sono anche in grado di esportare, quindi vuol dire che sono capaci di collocare i propri prodotti sui mercati internazionali, quindi fanno prodotti competitivi, e però diciamo hanno ancora una posizione di minoranza nel panorama complessivo. La vostra ricerca evidenzia che aumentano i grandi impianti. Diciamo, nel 2009 si è registrato un aumento significativo degli impianti, diciamo i cosiddetti un po' centrali fotovoltaiche, quindi da un megawatt in su, che è un po' il segno dell'impiego di quei cosiddetti campi fotovoltaici di cui parlavo prima. L'abbiamo sentito, in quanto a filiera industriale per il fotovoltaico in Italia c'è molto da recuperare. Ma ci sono comunque aziende che lavorano da tempo nel settore, come Elettronica Santerno. È una società di Imola con 40 anni di storia che ora fa parte del gruppo Carraro. Fanno tante cose, tra cui gli inverter, cioè i convertitori che sono fondamentali per convertire appunto l'energia elettrica prodotta da un modulo fotovoltaico in corrente alternata da immettere nella rete elettrica. E sono la dimostrazione, quelli di Santerno, che le aziende che lavorano in questo settore possono farcela. I loro bilanci infatti sono da anni non in attivo, più che in attivo. Marco Tecchio è l'amministratore delegato. Il mercato fotovoltaico in tutto il mondo sta crescendo, in Italia in particolare in questo periodo sta performando molto bene. Santerno è l'azienda leader in Italia nella produzione di componenti elettronici per le applicazioni alle energie rinnovabili, e quindi beneficia di questa crescita in modo importante, direi quasi tumultuoso. Dovete correre perché per stare dietro. Sì, è una crescita veramente forte, non solo in Italia, poi anche tutto il resto del mondo, diciamo soprattutto i paesi occidentali, ma stanno crescendo in maniera importante anche la Cina e altri paesi, diciamo, che una volta si chiamavano emergenti, e quindi l'insieme dei volumi si sta moltiplicando più che sviluppando, direi. Senta, quindi lei implicitamente un po' mi conferma quello che poi le avrei chiesto comunque, cioè che in Italia c'è un po' qualche buco insomma nella filiera industriale, perché non veniamo un po' colonizzati da altri paesi che sono partiti prima magari in questi settori. Beh, storicamente parlando proprio di fotovoltaico, la tecnologia era nata in Italia molti molti anni fa, però il primo mercato che si è sviluppato a livello industriale è stato certamente quello tedesco, proprio della Germania, che ha un vantaggio di circa 10 anni dal punto di vista proprio dello sviluppo del mercato, non tanto delle tecnologie. L'Italia ha cominciato a sviluppare una legislazione favorevole a questo tipo di investimenti dal 2005, 2006, poi 2007 con la revisione del conto energia, e quindi il vero mercato di volume è partito di fatto 3 anni fa. Questo gap temporale c'è tutto sulla dimensione degli operatori. Voi che siete partiti, diciamo, per tempo, perché tra tanti comunque siete partiti per tempo, avete anche recentemente dato vita a un'accademia del fotovoltaico, quindi immagino che siate anche concentrati non solo sulla produzione ma anche proprio sulla ricerca. Sì, l'idea fondante dell'Accademia Fotovoltaica Italiana, che è appunto un'iniziativa di Santerno, ma che non vuole essere di proprietà di Santerno. Santerno vuole solo essere l'acceleratore di questo percorso. Dicevo, l'idea fondante è quella di aggregare la filiera di competenze del settore presente in Italia per riuscire a fare sistema ed esportare all'estero, così come hanno fatto i nostri amici tedeschi per tempo, una capacità complessiva di stare sul mercato aggregata e molto mirata. Teniamo anche presente che l'Italia, per motivi banalmente geografici, rispetto allo sviluppo dei prossimi anni, che sarà molto centrato sui paesi dell'area mediterranea e su paesi di latitudini omologhe nel resto del globo, è un ottimo laboratorio naturale per sviluppare tecnologia del fotovoltaico. È chiaro che noi abbiamo condizioni meteo e ambientali in senso lato molto vicine a quelle che sono quelle delle aree che più si svilupperanno nei prossimi anni, e questo potrebbe essere un ottimo acceleratore non solo per Santerno ma per tutta la filiera industriale del paese. Quindi è il momento di insistere e di lavorare, ecco, su questa possibilità. Sì, bisogna lavorare su questa possibilità e soprattutto bisogna aver molto chiaro che lo sviluppo dell'industria si fa internazionalizzando. Nessuno può pensare di avere uno o due paesi di riferimento e rimanere un player globale quando il mercato si svilupperà e si consoliderà. Tutti noi dobbiamo aver ben chiaro che dobbiamo crescere in tutto il mondo a ritmi molto serrati, perché sono mercati caratterizzati da una grandissima velocità, forse tra i mercati più veloci oggi nel mondo. E quindi questa crescita veloce e molto mirata all'internazionalizzazione ha bisogno di sistema, ha bisogno che l'industria nel suo complesso faccia sistema per condividere gli sforzi necessari a diventare dei protagonisti a livello mondiale. I tedeschi lo hanno fatto, noi dobbiamo farlo anche con la logica di recuperare una certa distanza. Voi più come... dimensionale che tecnica, devo dire. Cioè loro sono molto più grandi perché hanno avuto un mercato che appunto si è sviluppato con 10 anni di anticipo, ma non ci sono grandi differenze tecniche, diciamo, tra l'offerta di un paese rispetto a un altro. Il problema è proprio quello di recuperare questo gap dimensionale correndo più veloci possibilmente. Al lavoro sulle rinnovabili è anche un'altra splendida quarantenne, per così dire, italiana, Almeco, da sempre attiva nel settore illuminotecnico. Col tempo e con l'esperienza acquisita nella realizzazione di componenti in alluminio per applicazioni che richiedono alta riflessione, per intendersi tipo lampade e riflettori, Almeco si è dedicata alle fonti rinnovabili ed ora quindi produce anche laminati metallici da utilizzare per la produzione di energia solare termica e termodinamica. Si tratta in pratica della produzione di specchi d'alluminio da installare al posto di quelli tradizionali in vetro. Anche se rendono un poco meno in termini di energia, questi specchi sono vantaggiosi per leggerezza, facilità di manutenzione e bassi costi ambientali. Nel curriculum di Almeco spicca la partecipazione al consorzio Frisan, una delle esperienze segnalate dall'Energy and Strategy Group del professor Chiesa per il settore del solare termodinamico, e cioè una tipologia di impianto che sfrutta la componente termica dell'energia solare per la produzione di energia elettrica. Il consorzio Frisan, di cui Almeco fa parte con diverse altre aziende di forte tradizione, sta mettendo a punto un impianto sperimentale da 1 megawatt in provincia di Siracusa con la tecnologia degli specchi Fresnel. A che punto stanno i lavori? L'abbiamo chiesto a Onorato Fiorentini, amministratore delegato e fondatore di Almeco. Noi stiamo installando e stiamo montando questa centrale da 1 megawatt in Sicilia e dobbiamo essere pronti, perché l'impegno che ci siamo presi è quello di essere pronti entro 2015, e al momento stiamo anche facendo tutta una serie di test e di sviluppi sui vari componenti che compongono appunto questa centrale, che sono gli specchi, i tubi assorbitori piuttosto che il sistema di tracking. Stiamo operando tutti insieme, tutti consorziati, per arrivare al traguardo che ci siamo posti, pronti e per poter testare l'impianto e vedere appunto che tutto quello che abbiamo progettato e pensato sia poi trasformato in energia, diciamo. Quindi stiamo nei tempi? Assolutamente sì, per quanto riguarda alcuni componenti sicuramente sì, altri sono andati magari un po' più embrionale, quindi ci vorrà un po' più di tempo per gli sviluppi, però io sono certo che arriveremo nei termini giusti e rispettando le date che ci siamo dati. Bene, tutto per la puntata di oggi di Respiro. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento la settimana prossima alla stessa ora.